Everybody here comes from somewhere. The day we just as soon forget. Con i quali vi do il benvenuto all'ascolto di Rock FM. Allora, un saluto a tutta la famiglia Rock all'ascolto, un buon pomeriggio dal DJ Edo Rossi. Allora, mamma mia, sono inevitabilmente reduce dalla tappa romagnola con la Rock FM Stars Band. Immagino che Max ve ne abbia già parlato, insomma, ancora. Vi faccio i miei più grossi ringraziamenti, un grosso abbraccio a tutti voi per averci dato la possibilità di vivere una serata bellissima come quella che abbiamo tenuto con la Rock FM Stars Band a Russi in provincia di Ravenna. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie alle band che hanno suonato prima di noi e soprattutto grazie anche a chi si è fatto parecchia strada per venirci a trovare arrivando da tutte le parti delle zone dove alla fine Rock FM è ascoltata. Veramente grazie mille, l'appuntamento è rinnovato a venerdì prossimo, a venerdì 9, in quel di Piazza Liberty a Milano, dove suoneremo la tappa milanese della Rock FM All Stars Band. Allora, oggi aspetta un po', messaggio alla nazione di Rock FM: su MySpace tutte le foto della tua cena e non solo. Bene, quindi sul MySpace di Gibson, praticamente myspace.com/Gibson1969, ci sono le foto della Edo cena più altre cose. Bene, grazie Gibson 69 per la segnalazione. Vado veloce, vi ricordo il numero SMS per entrare in contatto con Rock FM: 335 100 77 77, oppure l'email edo@rockfamily.it. Dicevo, vado veloce perché abbiamo gli ospiti che in realtà sarebbero dovuti venirci a trovare domani, ma sono già qui oggi, quindi facciamo tutto in diretta. Sto parlando dei grandissimi Sud Sound System, con i quali tra poco parleremo del loro nuovo prodotto che si chiama Dammene Ancora. Non prima però di esserci ascoltati anche i Motley Crue con il nuovo singolo che è Saints of Los Angeles. Tonight, siamo morti. Senza di niente la vita mia peggio stia. Stu cuore pace non è tuo. No, no, no, no. Oh, sì, ne te ho io mai. Lasciate nel sogno, dilli la vuoi. Se l'amore non c'è, e non rimane altro che. Oh, peggio stia. Chiedersi come mai. Oh, no. Solo chiedersi come mai. Sto andando a chiedere. Se è troppo tempo che tutte tengo nanti alle chimei, mi tornano nanti agli pensieri qui ti toi, che me supporti più, o si ne peggiate o i umori, la c'è, me pare che ci senti proprio come se stai mai, che mi grazi le stringi e mi dici che me vuoi, è proprio come si ha sento le parole noi, ma è solo un'illusione e lo tempo non passa mai. Se l'amore non c'è, se il buio per me non c'è pace perché passa mai per Cristo, cerco come ricordo tutte le cose che fanno parte di lui, ma tu non stiamo insieme tu che noi, lui ricordo della passione, l'unico freddo che ha restato ma tu già lui, ma Cristo non ne serve, te la sai perché la notte per me non passa, la mente non si rilassa, il pensiero tu non me lassa, c'ha le chiede degno in pressa, la notte per me non passa, la luce in prima io confessa, se qui futurata per sempre l'anima mia sa che si è persa. L'amore non c'è, oh no. Chiedersi come mai, solo chiedersi come mai. Quando davanti te degno e non vede più un sogno, la sai che io non mi degno, tanti baci te odio, mille baci te odio, tanti e mille baci te odio, la tua è sempre per me pio, sì, non dici l'ora che torno, che ti tengo un bel segno, ogni giorno mi segno che tutto aiuto e stringo, perché tutto aiuto e stringo, le tue tengo sempre per segno, se è troppo tempo che non te tengo, anzi alle chimei, mi tornano anzi agli pensieri qui ci toi. Con me supporto chiui, o si ne peggiate o gli umori. Perciò mi pare che ci senti proprio come se stai guai. Che mi razzi mi stringi e mi dici che mi vuoi. È proprio come si aga sento le parole tue. Ma è solo un'illusione, lo tempo non passa mai. Oh no, lo tempo non passa mai. Quando ti le parole non ci stai. O si ne peggiate o gli umori. Se l'amore non c'è e non rimane altro che chiedersi come mai, solo chiedersi come mai, e nel buio per me non c'è pace perché. Allora, dunque, come annunciato, Sutton System ospiti a Rock FM, ritornano in realtà dopo aver fatto delle la base di Illegal come ai vecchi tempi. Grazie Max, ringrazio Max Derio per il supporto tecnico. Allora, dopo essere stati ospiti telefonici, in realtà abbiamo avuto la fortuna. Finalmente abbiamo il piacere di stare qua. In carne e ossa, bene, bene. Allora, Sutton System che arrivano alla pubblicazione di un nuovo disco. Devo dire che voi non avete mai perso il ritmo a fare dischi, no? Siete sempre stati piuttosto produttivi, no? Sì, di pezzi ce ne sono pure di più di quelli che abbiamo messo sul disco. Ne sono 18, ne avevamo pure altri 4-5, però vabbè, insomma, andavamo fuori il tempo. Sì, però diciamo che colmiamo il nostro tempo facendo delle partecipazioni pure su altre produzioni che non sì. ci riguardano, insomma, combinazioni con gli Aprile la Classe, con Roy Paci, certo. Con One Love su 45 giri, insomma, un po' in giro. Certo, certo. E tra l'altro voi, apro questa piccola parentesi prima di parlare del disco, voi partecipate su altri dischi perché voi comunque avete anche uno studio nel quale spesso vi vengono a trovare i musicisti giusto, per avere, sì. insomma, per registrare materiale, no? Sì, diciamo che il nostro studio è un posto in cui passano tutti, molti artisti, molti cantanti salentini e molti DJ giamaicani che... E proprio per questo comunque abbiamo approfittato della loro presenza pensandoci prima e preparando dei ritmi che potevano essere buoni per quel tipo d'artista che arrivava nel Salento, insomma. Infatti già nel disco scorso avevate già avuto delle collaborazioni così di questo tipo, questa volta è stata proprio, tra virgolette, se mi concedete, chirurgica. Sì, cioè, avete proprio il pezzo preciso, sì, per il, l'ospite. È stato proprio il fatto che, avendo la possibilità dello studio, proprio di che gli artisti passano dal Salento, è stato, c'è stata la possibilità proprio di confrontarsi artisticamente, di fare il ragamuffin italiano giamaicano. Proprio ci siamo confrontati con diversi artisti giamaicani ed è stato proprio bello farli pure esprimere loro in dialetto salentino. Ah, ecco, attenzione, diciamo, che questa è... I testi sono nati insieme, abbiamo sviluppato le idee insieme, in molti casi. In altri casi si sono adattati benissimo alle melodie. Alle vostre, bene. Tecnicamente avete affrontato un po' tutto il panorama, diciamo, tra virgolette, della musica solare. C'è il c'è la dancehall, c'è il reggae più lovers, eccetera, quindi insomma rimanete sempre a 360 gradi. Sì, quello è una questione di gusto. Noi facciamo musica e scriviamo parole che fanno parte anche del nostro repertorio personale. Certo. Ascoltiamo da sempre musica reggae, quindi cerchiamo anche di seguire l'evoluzione che la musica reggae stessa ha, questo attraverso, diciamo, acquisto di materiale, insomma, di 45 che continuo, sono delle spese assurde. È iniziato a diventare, prima, sì, 45, sì, sì, giri era... E chiaramente poi tutto questo cerchiamo anche di evolvere il suono, riconoscendo anche al reggae stesso l'evoluzione che ha avuto, insomma, partiamo dalla, certo, black music, infatti i brani che ci sono in questo disco vanno anche sul soul, sull'R&B, tipo il pezzo con Neffa, ma anche tipo la ballata del precario, lì si parlava di schiavitù, quindi era, non si poteva fare altro che attingere dal blues, che è la musica degli schiavi per eccellenza, quindi usare anche, certo, queste commissioni, questi stili per restituire delle canzoni che vengono lette magari in modo più ampio. Certo, parlavi del soul con Neffa, non dimentichiamo che con Neffa, insomma, la vostra amicizia parte dai primi anni 90, se non sbaglio, quando avevamo i riccioli in testa. Quando è nato questo fenomeno delle posse, che in realtà è stata assolutamente una cosa che in Italia ha decisamente smosso le acque, è stato un po' un punk, no, della musica italiana, no? Voi l'avete vissuto dall'interno, com'è stato? E soprattutto c'è qualcosa che rimpiangete di quel periodo lì? Tutto. Vabbè, si rimpiange prima di tutto gli anni passati, insomma. Poi molti amici che non fanno parte più di questo, cioè diciamo che non cantano più, però comunque continuano a stare nel panorama della musica reggae. Certo. Però in un certo senso il fenomeno delle posse poi è stato attribuito dai molti giornalisti che parlavano di questa storia come un fenomeno, insomma. Lo è stato, però in alcuni versi poi è la passione per la musica che resta immutata negli anni, e negli anni di quelle posse ben poco è rimasto, insomma. No, ho capito. Beh, alla fine si è fatto un po', come si dice, la tara di quelli che credevano, sì, un po' di più, eh? No, vabbè, c'è, ma un po' pagato, no, forse. No, c'è stato anche... è rimasto il reggae, cioè diciamo che allora si parlava di fenomeno delle posse, delle cose, ma quello, come diceva Fabio, è la passione per il reggae. Questa, c'è, questa, okay, cosa, la musica posse, la musica posse era, non è, okay. Era il modo per descrivere, sì, questo tipo di musica. Okay, noi ci abbiamo sempre tenuto comunque a ribadire che questa era la musica reggae, certo, o la musica hip hop, certo, quello che è essenziale far capire alla gente. C'è molta gente, non c'è più in questo ambiente, anche perché magari è ritornata laddove c'era stata prima. Molta gente ha fatto riferimento alle poste perché magari era un movimento che aveva un po' cavalcato esatto, la cosa, esatto. Ho capito, bene. Senti, è inevitabile parlare di Salento con voi un attimo, che è la vostra terra, e quello che vi ispira e quello che vi porta, diciamo, a comporre questo tipo di musica. Un Salento che ultimamente sta vivendo una sorta di invasione da un certo punto di vista. Voi come vivete questa cosa? Beh, insomma, da un certo punto di vista fa sempre piacere vedere gente nuova. Se poi comunque deve diventare il solito turismo pacchetto, certo, isterico, no? No, vieni, certo, mordi e fuggi, insomma, diventa una cosa stupida che non giova a nessuno, né al turista che certo. Non può vedere le cose belle davvero del Salento, e né tanto a noi che ci viviamo tutto l'anno lì. Cioè, il Salento è stato conosciuto per le sue bellezze naturali, per un bel mare, una bella costa, delle belle spiagge, la campagna che è stupenda con questi muretti a secco. Dovremmo puntare su quel tipo di turismo, che chiaramente offre dei ritmi differenti da quello che invece è il turismo di massa estera. Proponiamo proprio alla gente che viene giù proprio per la musica reggae, insomma, per le dancehall e tutto quello che è il Salento, di restare, di girare quanto più possibile per conoscere posti nuovi, che ce ne stanno tanti, dove poter, insomma, oltretutto pure che il periodo bello nel Salento va dai primi di maggio fino alla fine di marzo, settembre. Pure a ottobre ci si può fare ancora il bagno. Noi girando sempre dal mare, chi per una cosa, chi per un'altra, notiamo proprio il cambiamento che avviene dall'estate all'inverno. E non solo, cioè, chiaramente tutto dorme, però è quella tranquillità comunque ti mette una pace interiore. Sì. E purtroppo, diciamo, poi questo del turismo non è soltanto uno degli aspetti che stanno usurando ultimamente il Salento. Ultimamente il Salento è anche vittima di quella parte produttiva stupida. Cioè, l'estate scorsa è uscito un articolo su cui si diceva che la Puglia da sola produce il 37% di anidride carbonica. Sì, il 37% è dell'anidride carbonica prodotta in Italia. E non abbiamo tante industrie, abbiamo soltanto l'Ilva di Taranto e alcune centrali dell'Enel, che però lavorano male e ci stanno avvelenando. Ci sono tante morti, ma tantissime. Cioè, non muore più nessuno di morte naturale, ecco. Quindi il Salento deve recuperare ciò che ha perso, innanzitutto l'attitudine ad una vita naturale. Prima Taranto era la capitale della Magna Grecia, ci stavano scienziati, filosofi, letterati, e adesso c'è una centrale che ammazza le persone. Noi avremmo preferito una Taranto con la vocazione del mare, del porto e di una bella campagna, quindi magari sarebbe opportuno pensare a quel Salento. Poi tra l'altro in Salento fa caldo, quindi muoversi con calma sotto un certo aspetto è approfittare comunque della disoccupazione, della vita precaria di molte persone, comunque gli dai l'industria, se non lavori qua non lavori da nessuna parte. Bene, allora, purtroppo il tempo come al solito scorre inesorabile, parliamo di cose tecniche, dunque l'8 di maggio chi vorrà potrà vedere lo spettacolo del Sud Sound System sul palco dell'Alcatraz. Bene. E il pomeriggio presentiamo il disco alla FNAC, un'edizione speciale un po' acustica. Bene, molto bene. Tra l'altro Alcatraz, laddove registraste il vostro bel live qualche anno fa. E che altro dire? Speriamo naturalmente di potervi riavere ancora in extremis, se ce la facciamo organizzarci prima della chiusura. C'è qualche contatto, qualcosa che dobbiamo ricordare per fare in modo che la gente vi trovi? Ci possono contattare tramite il nostro sito www.sunsystem.eu Europa, no? Oppure su MySpace, sul Sound System Official 07. Perfetto, ok. Va bene, io ringrazio fortissimo il Sound System, vi ricordo il disco, si chiama Dammene Ancora. Chiudiamo con la traccia che appunto è la traccia che dà il nome al disco o è il disco? Ok. La traccia che dà il nome al disco. Ok, perfetto. La traccia che dà il nome al disco si chiama appunto Dammene Ancora, e ancora un ringraziamento ai Sound System. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ci vediamo l'8. Brucia. Yeah. L'aria, la musica, è potente nel gioco, si è libera. Non si ride, non si tocca bene in fisica, perché te ne si incatta, ne porta dentro l'anima. Come si chiama, te la più bella macchina. A te si canta, la gente che si godula. C'è le voci, tu per tutti, c'è le infinità. Nel spazio per cedere sensibilità. Alla vibrazione, cosa che te comuna. Forse è fenomenale che come si haga. Senza di te, mi te da volontà, con su piccoli libertà, su tanto dignità. Si dammene ancora, dette emozione, dammi libera anche l'aria. La gente si ispira, non me fermare la musica stasera. No, no, no, ciao, voi, che la sai che non ne puoi tirare tu gusto e che voglia che mi faccia cantare. Che la sai che non puoi studiare tu fai questa musica ci tiene a dire. Che la sai che non puoi fermare un sacco di gente che hai da ballare. Voi unite a quelli vuol dire la musica reggae non può morire. Qui da me imparo, qui da Caruso, qui da me azzo, qui da me curto, qui da io so, qui da sostengo, qui da capisco come su più chiaro. Qui da io fumo, qui da me sto nelle storie scacchie, qui da abbandono me serve d'aiuto per la conoscenza. Come una figura per questa festa di una tradizione dalla terra mia. Hai tanto tempo un casto ritmo libertà o leggioa. Comuni non mi esci se tu c'hanno con la pizzica. Sappiano che la malvagità se ince con la musica. Cantavano le rime con spessa nucatine. Mescavano la raggia sull'amore e la passione. Nulimo ereditata proseguimo sta missione. Moi dammi solo reggae che bruciamo ogni oppressione. Dammene ancora, questa emozione che mi libera già l'aria. La gente lavora e lui dice a casa ispira. Non mi fermare la musica stasera. Musica gramatina, tutta la notte la musica continua. Pesci un po' la guapa non guida con la sensazione della macchina che danza e cammina. E carria sempre prima prima, c'è un cuore di ogni persona. La luce della benzina guida buona tutto tu ma non inquina e non si consuma. Ti amano questo fanno con ballano questo tenore le vibrazioni corsi dentro l'animo. I bagnoli si rispettano gli mascoli, le femmine si cercano se sentano se trovano. Tutti olano, governano, guidano. Tutti olano, governano, comprovano. Tutti olano, governano, guidano, comprovano. Questo fanno con ballano, comprovano, guamano. Rispetto che riceve sta terra. Tutto in porta questa storia che da tanti anni continua e tanta gente avvicina. Tutti sanno se è bello talento e c'è questo sono contento. Come il culo e lo mare lui dentro di New York non sta da morire qui in giro. Dammene ancora questa emozione che mi libera già l'aria. La gente ora e lui dice ai casi sera. Non mi fermare la musica stasera. Give the message.